Pellegrini. Autorità, anche quest'anno siamo in questa piazza a festeggiare il 25 aprile e a ricordare la memoria della resistenza antifascista e i valori della Costituzione democratica italiana. Chiunque avesse pensato che questa giornata del 25 aprile si stesse ormai riducendo a puro rito, proprio il 25 aprile di quest'anno smentisce l'idea del genere.